Siamo i ribelli della montagna, di grandi stenti e di patimenti. La puntata speciale di Anno Zero, Rai per una notte, di ieri sera è iniziata in questo modo. Vi domando, desiderate degli onori? Delle ricompense? La vita comoda? Esiste per voi l'impossibile? Volete che torni al governo questa sinistra che reintrodurrebbe subito l'ICI? Volete una sinistra che raddoppierebbe le tasse sui vostri risparmi, sui BOT e sul CTT? Volete lo Stato di polizia tributaria che verrebbe fuori da questa situazione e che è lo Stato che vuole la sinistra? Siamo i ribelli della montagna. Cioè, la trasmissione di ieri sera è iniziata, che ha avuto un grande successo di pubblico, eccetera, eccetera, è iniziata con un paragone chiarissimo tra Mussolini e Berlusconi. Quindi, Santoro. Caro presidente Napolitano, noi non siamo al fascismo. Fra poco andremo a votare in tutte le regioni italiane in cui si vota e la gente sceglierà liberamente per quale governatore votare. Ma certe assonanze sono comunque preoccupanti. Questo, Santoro, secondo me, ho visto la trasmissione registrata questa mattina e non tutta, il commento migliore è stato quello di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Commento è questo, la trasmissione di ieri sera è stata un'altra perla della dirigenza che ha creato, la dirigenza della RAI, che ha creato le premesse per l'ennesima celebrazione del martirio di Michele Santoro. Martirio o incitazione all'odio? Per non farsi mancare nulla, RAI per una notte ha iniziato subito con una pesante analogia tra Mussolini e Berlusconi, sotto forma di lettera aperta al Presidente della Repubblica. Noi non siamo al fascismo, proclama Santoro, ma certe assonanze sono comunque preoccupanti. Poteva mancare la requisitoria di Marco Travaglio e il termine da primo della classe di il temino da primo della classe di Giovanni Floris dal titolo Gli italiani hanno la democrazia nel sangue e l'invito di Gad Lerner a mettere agli atti che si è accorto chi si è accorto della censura e chi no, e la metafora arde di Daniele Luttazzi su certe attitudini sodomitiche del potere. Il Santoro Show, che ieri è andato in onda dal Paladozza, è stato molto più interessante per le modalità di fruizione che per i contenuti. Sentiamo dunque queste incitazioni all'odio di cui parla Aldo Grasso a partire da Luttazzi, sentite. E quando quel fazioso di Berlusconi vi dirà che voi siete mossi dall'odio, voi replicate con le parole del grande oratore latino Quintiliano, che ricordava: odiare i mascalzoni è cosa nobile. Perché è cosa nobile? Ce lo ricorda Aristofane nei Cavalieri. Diceva: ingiuriare i mascalzoni con la satira è cosa nobile, a ben vedere significa onorare gli onesti.